9 in punto, la versione di Oscar. Siamo in tutte le province, abbiamo la presidenza di tutte le province allora. Siamo anche nella regione. È chiaro che le banche più grosse italiane alla fine avranno per forza uomini nostri. Ad ogni livello. Certo, è la gente che ci ordina, andate, pigliatevi le banche e noi andiamo. Eccoci cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì. Avete riconosciuto, era la voce di Umberto Bossi all'indomani delle elezioni regionali, che diceva: la gente ci indica l'obiettivo, le banche, e noi ce le prenderemo. È stato un gran fiorire di polemiche su questo tema, su che cosa volesse significare più influenza della Lega nelle banche. Ancora oggi trovate in prima sul Corriere della Sera un editoriale di Francesco Giavazzi che è dedicato esattamente a questo tema. Nel frattempo però che cosa avviene? Avviene che mentre quelle alimentate da queste parole di Bossi restano polemiche, a Torino succede poi un fatto vero, e cioè, siccome stiamo parlando delle fondazioni bancarie, cioè di questi particolari azionisti delle grandi banche italiane, che in realtà esistono solo nel nostro paese perché hanno una natura costituzionale, perché la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla loro natura mista, pubblica e privata insieme, e sono diventati i protagonisti del grande consolidamento bancario che abbiamo alle spalle nei 15 anni, e sono contemporaneamente espressioni di poteri locali, ma negli anni sono diventati molto autoreferenziali perché la politica era molto indebolita. Allora a Torino le espressioni delle fondazioni che devono indicare i nuovi manager, i nuovi organi di Banca Intesa, succede intanto un pasticcio, una polemica che non avviene nel mondo della Lega, perché sto parlando delle indicazioni della Compagnia di San Paolo, grande azionista di Banca Intesa, per la presidenza del consiglio di gestione di Banca Intesa stessa. E in questo caso quindi le polemiche nascono perché il management della banca, il presidente Bazzoli e soprattutto il presidente di un'altra fondazione, la fondazione Cariplo Guzzetti, accusano, in altre parole, il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che spesso abbiamo invitato ai nostri microfoni, di aver organizzato degli intrighi torinesi, per così dire, per cui invece di Enrico Salza, ex presidente del consiglio di gestione di Banca Intesa, l'uomo che portò in un mese di agosto, pochi anni fa, il San Paolo a sorpresa praticamente al conferimento nelle mani di Banca Intesa, con vaste polemiche in città, c'è chi disse che non era stato informato, che era un colpo a sorpresa. Ecco, la Compagnia di San Paolo dicono oggi no, Salza non ci rappresenta più, e quindi a sorpresa passano due altri nomi come candidati, di cui uno è Domenico Siniscalco, ex direttore generale di Tremonti e poi suo successore al Tesoro, poi banchiere d'affari, oggi anche presidente di Asso Gestioni. E su questo all'interno del PD è subito polemica. Oggi trovate altre interviste polemiche, per esempio di Enrico Letta, sempre sul Corriere della Sera, che accusano Chiamparino di fare il gioco della Lega. Allora, la domanda che ci poniamo oggi con i nostri ospiti è se davvero siamo in presenza di una nuova ondata di mani dei partiti nelle banche, o se invece esiste comunque un'anomalia della serie: ma quali interessi davvero perseguono i capi delle fondazioni bancarie, e rispondendone a chi? Tanto è vero che a quel punto la polemica sulla Lega, come la polemica su Chiamparino, diventa una specie di scudo in nome dell'autoreferenzialità dei banchieri da una parte e dei capi delle fondazioni, e tenteremo di capire quale di queste due tesi sia fondata. È ovvio che da questi microfoni noi siamo per un sistema bancario che sia il più possibile mondo da improprie commistioni con la politica, però al contempo non ci nascondiamo che l'anomalia, la singolarità di questa natura delle fondazioni bancarie, beh, forse ha bisogno di attenzioni concrete. Cioè, non facciamo finta di credere che siano azionisti privati qualunque, visto che devono essere gli enti territoriali, quindi quelli espressi direttamente dal cittadino con il loro voto, a indicare poi le priorità alle fondazioni per allocare il loro patrimonio e per investire anche sul territorio, poiché la realtà dell'ordinamento italiano è questa. Non è che si può levare scandalo solo se poi gli enti territoriali sono amministrati da gente di un colore, mentre invece fino a che c'è gente di un altro colore diventa una specie di garanzia all'autonomia e all'indipendenza del sistema bancario. Questo in teoria, ma sentiamo come la pensate voi. Chiamate all'800 24 00 24. Ora vi presento gli ospiti. Abbiamo collegato con noi innanzitutto il senatore della Lega Nord e membro della Commissione Bilancio, senatore Paolo Franco. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Poi abbiamo Marco Alfieri del Sole 24 Ore, che spesso racconta ai lettori del Sole l'evoluzione di questa galassia politica e bancaria del Nord. Buongiorno Alfieri. Buongiorno a voi. E Massimo Mucchetti, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Mucchetti. Buongiorno. Allora, senatore Franco, innanzitutto, quanto c'è da temere delle orde, sto usando un'espressione giornalistica, leghiste all'interno delle fondazioni prima e delle banche poi? Era un'espressione di quelle che Bossi utilizza per indicare con chiarezza la necessità di un riequilibrio politico, oppure è una specie di resa dei conti, quella che aspetta Unicredit e Banca Intesa? Credo che sia quasi divertente, insomma, quello che è successo negli ultime settimane a proposito della questione sulle fondazioni. È evidente, è ovvio, è assolutamente legittimo quanto ha espresso il segretario federale della Lega Nord, Umberto Bossi, che gli enti, come previsto poi dalla legge, che costituiscono parte delle fondazioni, quindi gli enti locali, i comuni, le province e le regioni, intervengano nella costituzione stessa delle fondazioni, perché diceva lei poco fa correttamente, così è in questo stato di diritto e secondo i sistemi con cui sono state concepite le fondazioni bancarie con le leggi istitutive. Quindi non c'è nulla di male, ma direi che piuttosto dobbiamo analizzare un altro aspetto, cioè perché c'è qualcuno che si oppone al fatto che chi rappresenta l'elettorato, cioè i cittadini, il popolo, e che ha ottenuto da questi cittadini un consenso elettorale consistente e che grazie a questo consenso vada ad amministrare gli enti locali, perché è scandalo che pretenda giustamente di dare voce ai cittadini che rappresenta all'interno di queste istituzioni importantissime, poi condivisibili o meno, questo è un altro paio di maniche, quali sono le fondazioni bancarie. Allora, se c'è qualcuno che grida di dolore per questo, c'è da insospettirsi, c'è qualcuno che dimostra una volta in più che del consenso popolare, delle esigenze dei cittadini, e la Lega sappiamo rappresenta in particolar modo quel mondo di piccola e media impresa che mi sembra non sia stato tanto in questo periodo di crisi trattato bene dalle banche. Bene, in un momento come questo c'è chi si oppone al fatto che la Lega e i cittadini e l'elettorato che rappresenti la Lega possa dire la sua in un sistema bancario che, ripeto, non è mai stato attento a queste realtà locali. Ben venga invece finalmente il fatto che ci sia la possibilità che nuova linfa, quindi non le orde come dice qualcuno, ma nuova linfa legata al territorio possa parlare tramite le fondazioni agli istituti di credito per cercare di farli divenire più a misura di cittadino, di risparmiatore e di imprenditore rispetto a quanto non lo siano state fino adesso. Mucchetti, bisogna usare il radar, certo, noi come giornalisti abbiamo questo compito fondamentale rispetto a un passato in cui spesso la politica nel nord e soprattutto nel sud, pensiamo a quanto poi sono costate vicende come quelle del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, molto meno che in altro paese, ma insomma l'improprietà di un merito di credito esercitato per priorità politica nella storia del nostro paese come dovunque porta sempre poi a grandi scompensi che bisogna poi salvare. Detto questo, e quindi dovendo esercitare questo ruolo, mi colpisce la singolarità della coincidenza. Da una parte le polemiche post-elettorali, dall'altro quello che succede a Torino e che riguarda appunto scelte decisive molto importanti all'interno di una grande banca italiana come Banca Intesa, e sono scelte, lo dico da torinese in quel caso, nei confronti delle quali a me sembra che nei confronti di Chiamparino si stia utilizzando un metro un po' pesante, cioè gli si dà un giudizio politico da parte degli esponenti del suo partito dicendo fai il gioco della Lega, quando dietro c'è una storia irrisolta, questa è la mia impressione e te ne chiedo però l'opinione, c'è una storia irrisolta che deriva proprio dalla singolarità di questa, di questi azionisti che sono le fondazioni, perché è chiaro che per una città come Torino, quando si prende una decisione come quella di unire il San Paolo a Banca Intesa e la si prende a sorpresa nel giro di pochi giorni in una rovente estate, e l'impressione nella città, negli enti conferitari della fondazione, in tutti coloro che ruotano intorno a una vicenda come quella, è che Salza, che all'epoca Enrico Salza, che poi diventa presidente del consiglio di gestione di Banca Intesa, abbia esercitato un ruolo molto deciso in questa vicenda, convinto, come ha sempre ripetuto, che ci fosse un grande interesse per questa scelta, ma una volta che poi nell'esercizio del suo mandato, per così dire, nella compagnia restano problemi irrisolti, alla fine quando si tratta di confermarlo o di scegliere una nuova indicazione, e semplicemente non considerazioni di ordine politico o artigli affilati della politica nella gestione della banca, ma considerazioni di un equilibrio diverso degli interessi degli enti che sono, che erano azionisti del San Paolo e che restano quindi azionisti ma molto minoritari Intesa, portano altre indicazioni. Allora, qual è questa, la singolarità della coincidenza di queste due vicende, in altre parole, secondo me ripropone il fatto che essere azionisti attivi delle fondazioni, o ci si limita a dire una parola semplicemente sui piani territoriali degli investimenti fatti dalle fondazioni nei musei, nelle cose, e si diventa per così dire azionisti dormienti, o se li si fa davvero gli azionisti, dipende, se prendi delle decisioni amiche dei banchieri pro tempore, allora diventi uno che difende l'autonomia bancaria. Non ti resta che dire che il presidente e l'amministratore delegato della banca fanno sempre bene e i giornali ti applaudono. Se invece tenti di fare l'azionista davvero, anche nell'espressione ma corretta dei candidati ai nuovi organi, ecco che fioccano le accuse sul fatto che sei un politico che vuole mettere la mano sulle banche. Forse è la natura stessa di questo azionariato un po' particolare che crea queste polemiche, che valgono per Chiamparino, che valgono per la Lega, oppure invece no, e c'è un problema vero che riguarda il politico nelle fondazioni che è meglio che si astenga da questo tipo di decisione. Tu come la pensi, Mucchetti? Ma io credo che intanto bisogna dare delle informazioni precise ai nostri ascoltatori, e quelle che ho sentito finora non sono proprio precise, no? Sono un po' di confusioni. Moltissime delle banche che oggi hanno le fondazioni come azionisti importanti, tranne il Monte dei Paschi e la Cassa di Risparmio di Genova, poi le altre, questi azionisti sono comunque tutti abbastanza piccoli, chi ha di più al 10%, il resto è del mercato. Certo. E beh, questo bisogna ricordarselo. Queste banche, e cito il caso più clamoroso che è quello del Monte dei Paschi di Siena, non hanno mai avanzato una lira alla politica. È chiaro questo? Quindi la politica non ha il diritto di, la politica intesa come governo, non ha il diritto di comandare sul Monte dei Paschi di Siena piuttosto che sull'Istituto San Paolo di Torino come era a suo tempo e su altre banche, perché ci aveva messo i soldi. È una cosa diversa, il governo a suo tempo salvò per esempio la siderurgia, parlo degli anni 30, e allora avendola salvata aveva diritto di comandare. No, ma qui stiamo parlando delle fondazioni e del peso che No, ma allora la gente se no non capisce niente, quindi hai parlato 10 minuti, fammi rispondere almeno. Figurati. Ecco, allora, quando si è deciso di privatizzare queste banche, che non avevano un azionista, diciamo così, formalizzato, non erano società per azioni, che destinavano i propri utili a quella che una volta si chiamava la beneficenza, si è pensato di salvare la storia di questi istituti e fare una modernizzazione inventandosi le fondazioni, che avrebbero continuato a fare la beneficenza nel territorio, e stiamo parlando di erogazioni importanti per centinaia di milioni di euro all'anno, e nello stesso tempo di affidare a una gestione di tipo capitalistico le banche medesime. Questa è stata la soluzione. La Corte Costituzionale ha detto, anche qui bisogna essere precisi, che le fondazioni sono soggetti di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico, ma sono soggetti di diritto privato, non sono soggetti al comando della politica. La verità è sempre un po' complessa, e allora com'è la verità? La verità è che gli enti locali concorrono alla nomina di una parte del governo delle fondazioni, l'altra parte è nominata da le università, le camere di commercio, le diocesi, le associazioni del non profit, cioè da quella che sinteticamente definiamo la società civile. Che questo porti alla autoreferenzialità è un pericolo, perché come dire, poi tutte queste cose vanno gestite bene. Che la politica, così come io dico anche un vescovo, piuttosto che un presidente di camera di commercio, chi più ne ha più ne metta, dica la sua, dia come dire, rappresenti delle esigenze, questo mi sta molto bene. Che la politica, che sia la Lega o che sia il PD tramite Chiamparino, poi dopo con i suoi mal di pancia interni, dica di voler piazzare i propri uomini, cioè entri coi piedi nel piatto della gestione quotidiana, questo mi preoccupa un po', perché ci riporta alla stagione degli anni Ottanta, quando il credito veniva erogato in Italia con criteri abbastanza politici, e questo ha portato le banche italiane, non soltanto il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa di Risparmio di Palermo, ma anche tante banche del nord, ad accumulare un carico di crediti inesigibili, di sofferenze, come si dice in gergo, e quindi di perdite su crediti enorme, che in qualche caso ha portato, diciamo, ai fallimenti di fatto, li abbiamo indicati prima, ma in generale ha costretto il sistema bancario italiano per una decina d'anni, 10-15 anni, a una faticosissima opera di digestione. Allora, il tema è chiaro che il sistema bancario italiano poi è evoluto o si è involuto verso impegni di tipo finanziario molto meno pronunciati che nei paesi anglosassoni, ma presenti anche qui, che vanno abbastanza superati. In questo senso, quando il governatore della Banca d'Italia dice le banche si devono preparare a guadagnare di meno, dice una cosa realistica, ma nello stesso tempo le banche devono avere la responsabilità della decisione del merito di credito. Quando sento dire che le banche devono essere vicine al territorio, io applaudo. Constato tuttavia che quando abbiamo costruito senza grandi opposizioni questi grandi colossi bancari, abbiamo messo assieme tanti territori diversi. Quindi se Unicredit sponsorizza una cosa a Roma e il Veneto dice caspita, dovrei sponsorizzarla da me, non bisogna dimenticare a sua volta che Unicredit a Roma ha comperato una grande banca che era Capitalia. Per cui alla fine, se l'avesse sponsorizzata in Veneto, i romani avrebbero potuto dire allo stesso modo perché non lo sponsorizzi da me. Bisogna un po' superarle. Essere vicini al territorio significa imparare o reimparare a dare il credito a tutti i capaci e i meritevoli, ma non a tutti indistintamente, perché capita, ed è esperienza quotidiana di ciascuno di noi, di vedere tante volte delle persone che hanno il SUV, che hanno la villa, che hanno dei beni personali importanti e nello stesso tempo non tengono abbastanza capitalizzate le proprie società. Io credo che per uscire da questa difficoltà bisogna per un verso coinvolgere attraverso un rapporto nuovo e più professionale le banche e gli imprenditori. Dare più credito di quanto non si dia è giusto, vorrei che questo fosse chiaro, tuttavia siccome siamo in un momento di recessione, di crisi, e quindi dare più credito significa creare di fatto anche più sofferenze e più perdite su credito, a questo risultato ci si può arrivare soltanto non con gli appelli volontaristici, ma prendendo dei provvedimenti legislativi adatti, altrimenti la politica fa delle chiacchiere e a sua volta è sospettabile di voler fare dei giochi di potere e basta. Un provvedimento che la politica dovrebbe prendere e non ha ancora preso è quello di consentire alle banche di portare in deduzione fiscale in modo più ampio di quanto non sia di quanto non avvenga adesso, che è molto piccolo, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Io mi rendo conto che questo può essere, può sembrare una cosa tecnica, ma l'economia è fatta certo anche di queste cose, altrimenti facciamo delle chiacchiere. Va bene, ho preso l'implicito, Massimo, sei stato molto polemico all'inizio, come se stessi facendo una confusione voluta. Io non ritengo che questo sia molto corretto da parte tua, però me la prendo, sto zitto, ti ho fatto parlare 11 minuti. La mia opinione, la ribadisco, e poi andiamo in pubblicità, è che non capisco perché dare ragione automaticamente ai presidenti e agli amministratori delegati senza azionisti capaci di incazzarli debba configurare un sistema migliore, perché in questo, nei risultati dei delle grandi aziende bancarie, io non le vedo questi risultati così tanto eclatantemente migliori. Certo, non sono a favore né sospettabile di improprie commissioni della politica, però l'autoreferenziale totale per tanti anni di presidenti e amministratori delegati porta a vicende come quelle del Corriere della Sera all'intervista di Romiti di ieri, che forse dovrebbero contare un po' di più nel giudicare i presidenti e gli amministratori delegati delle grandi banche indipendenti italiane. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del rapporto tra politica e banche, in questa stagione in cui si prendono decisioni rilevanti, si vedono le polemiche a Torino per le indicazioni della Compagnia di San Paolo ai vertici di Intesa. La domanda per Marco Alfieri è: la gradualità di fronte a noi delle nuove sostituzioni all'interno delle diverse fondazioni in realtà ci dà un periodo di tempo piuttosto lungo. Cari Verona farà delle scelte, la fondazione guidata da Paolo Biasi, delle scelte nel prossimo autunno, ma per il resto tutte le maggiori hanno un'articolazione temporale di sostituzione dei propri consigli di qui al 2013, al 2014, quindi da una parte c'è lungo tempo di fronte a noi, dall'altra la domanda è questa: da che la Lega nel Nord inizia a prendere bei voti, insomma, ed è pesante nel l'espressione degli enti locali che poi partecipano, sono soci delle fondazioni e ne danno indicazioni per gli organi di gestione. Tutti questi anni grandi polemiche in realtà non mi pare che ci siano mai state, o meglio, polemiche sui giornali talvolta sì, ma momenti di frizione tanto clamorosi da portare a elementi di rottura all'interno delle grandi fondazioni, da Cariplo a Cassamarca, a Cariverona, non mi pare che ce ne siano stati davvero tanti. Quindi la Lega in realtà poi ha una strategia che improvvisamente cambia marcia oggi, oppure in quello che ha fatto vedere ha ragione chi pensa che sia una specie di grande forza sostitutiva quasi di quella calma con cui la Democrazia Cristiana mediava interessi, tranne poi che la differenza è che nel linguaggio pubblico, comunicativo, ha questo linguaggio alla Bossi di rottura, ma nella realtà prevale più la mediazione complessa e abbastanza calma degli interessi per farli pesare senza troppe rotture. Insomma, gli anni alle nostre spalle, di fronte al nuovo peso della Lega, alle decisioni da prendere in queste fondazioni nei prossimi paio d'anni, quale in realtà registro a te fanno preferire? Marco Alfieri, quello più preoccupato e allarmato o quello di chi dice attenti al linguaggio di Bossi, ma in buona sostanza è più gente che pensa alle cose concrete che alle grandi polemiche di bandiera? Ma io penso che il linguaggio di Bossi sia sempre molto anfibio, cioè bisogna sempre stare attenti e decrittare bene i messaggi che comunque dice in chiaro e poi quelli che dice, diciamo così, sotto traccia. Io penso che ci sia molta valenza politica in queste uscite post voto di Bossi, cioè la Lega è troppo cresciuta, come dire, per non cambiare registro anche lessicale su questi temi, cioè per anni la Lega, come dire, è stata vorace nel sottobosco delle controllate pubbliche, degli enti locali, eccetera, eccetera, ma non aveva mai fatto, diciamo, il salto verso le fondazioni e le grandi banche. Una prima premessa: quando Bossi dice il management delle banche, dice vogliamo entrare, vogliamo mettere i nostri uomini a tutti i livelli, ovviamente si riferisce non alla persona di Alessandro Profumo o di Corrado Passera, ovviamente, come avete già detto voi, parla delle fondazioni, cioè di quegli organismi misti pubblico e privato dove, come dire, i territori nella loro valenza più larga, società civile più politica, esprimono delle persone, appunto, di avere un peso per orientare poi appunto la politica di queste votazioni su che cosa? Sostanzialmente, e qui torno al tema della valenza politica della, del ragionamento di Bossi, su due cavalli di battaglia che la Lega in fondo ha sempre agitato e che negli ultimi tempi ha enfatizzato. Da un lato, diciamo così, l'idea che la fondazione sia una sorta di salotto buono, autoreferenziale, dove siedono, come dire, i notabili della città, a Torino, a Verona, a Padova, e quindi l'idea un po' anche ruspante, anche ancestrale, del contado che accerchia la città, no? C'è molto di questa carica anche, come dire, un pochino revanchista della, del messaggio leghista. Dall'altro è quello che dicono un po' tutti i piccoli imprenditori in questi mesi, in questi lunghi mesi di crisi, e cioè che il, appunto le grandi banche ai tempi della crisi sono un pochino col braccino corto, dicono molti piccoli imprenditori, rispetto alla, alla concessione del credito, no? Poi credo che abbia ragione Massimo Mucchetti quando dice che c'è anche l'altra parte della, della, della medaglia, cioè il fatto che molti piccoli dovrebbero anche sfruttare la, la crisi per meglio patrimonializzarsi e per anche lavorare sul tema delle aggregazioni, dove aggregandosi potrebbero avere, come dire, un merito di credito molto, molto più favorevole. Dopodiché io credo che ci sia appunto molta valenza politica, e come giustamente dicevi tu, Oscar, in fondo un po' per gli statuti, diciamo così, che schermano, diciamo così, la presa politica in termini di nomine dentro le fondazioni, un po' perché effettivamente le grandi fondazioni andranno a rinnovo nei prossimi anni, la prima è ottobre che arriverà, come dicevi tu, e il resto nel 2012-2013. Io penso che alla fine si depositerà molto di questa polemica nei prossimi mesi. Alla fine credo che la Lega, soprattutto con la responsabilità di dover governare due grandi regioni del nord, dovrà, come dire, far vincere quel lato più tra virgolette democristiano nel governo del territorio. Zaia, io ho seguito la campagna elettorale di Zaia in Veneto, è un personaggio che ricorda per molti tratti la vecchia DC bisagliana, almeno diciamo così in alcune punte, diciamo così, che vanno tutte valutate, però nelle sue punte migliori di programma di governo Zaia ricorda un po' quel modello. Anche pensiamo, appunto, la Lega è diventata un po' il partito del nord, spazzando via il PDL, quindi credo che non possano tener conto di questo, di una gestione, come dire, laica di questi temi, perché ricordiamoci che appunto il tema delle banche è molto delicato, cioè il rischio che si torni con una politica che rientra dentro o che accentua la sua presa dentro le fondazioni, quindi dentro le grandi banche, si potrebbe tornare appunto agli anni 80, che non sono certamente positivi. E poi credo che sia interesse anche di un partito territoriale come la Lega far sì che le banche abbiano un'autonomia e gestiscano al meglio, diciamo, il merito di credito, perché più dividendi poi possono avere, più hanno risorse da stornare e da riversare sul territorio. Quindi credo che alla fine, depositate le punte polemiche di questi mesi, credo che prevarrà, come sempre è successo in fondo alla Lega, una gestione, io la chiamo democristiana, perché ovviamente siamo in Italia. Lo stesso ruolo che ha avuto Giancarlo Giorgetti in questi mesi, in questi ultimi anni, la mediazione anche spesso felpata e sapiente con tutta la galassia post-DC che è al vertice oggi delle fondazioni, mi fa pensare che alla fine sarà quella la linea che prevarrà anche dentro la Lega egemone di questi mesi. Quindi più che di rottura, di mediazione. Questa è la tesi di Marco Fieri. Sentiamo brevemente alcune telefonate per passare poi a un rapidissimo invece secondo giro di nuovo dal senatore Franco e poi Massimo Mucchetti. Allora, sentiamo rapidissimamente Stefano da Pesaro. Prego, Stefano. Allora, io volevo intervenire su un aspetto molto, diciamo, particolare, nel senso che prima ho sentito un intervento che parlava della politica nelle fondazioni, dicendo come se queste persone che controllano, ieri ho letto di dottor Buzzetti che controlla la fondazione Carico, intervenuto pesantemente in confronti del dottor Chiamparino, dicendo che non doveva sostanzialmente intervenire o interferire su scelte della fondazione. È una grandissima ipocrisia, perché tutti questi signori che controllano le fondazioni sono o ex senatori o ex, diciamo, politici di primo o secondo livello che sono stati riciclati dentro le fondazioni. Io vengo da Pesaro, il presidente della fondazione della Cassa dei Risparmi di Pesaro è comunque un senatore della DC, quindi io credo che ci sia una grandissima ipocrisia nel definire il controllo delle fondazioni. Sono politiche, e quindi la Lega, giustamente, visto che ha vinto le elezioni, che ha un peso politico in una zona e nell'area più ricca del paese, credo che giustamente debba dire la sua sulla nomina degli amministratori. Grazie Stefano da Pesaro. Andrea da Roma. Andrea. Prego, ci sente Andrea? Non ci sente, mi pare di capire. Antonio da Monza, dalla provincia di Monza, anzi mi dicono. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire brevemente un paio di cose. Io non sono un simpatizzante leghista, ciononostante credo che, visto il risultato elettorale, non mi scandalizza il fatto, anzi ritengo abbastanza legittimo il fatto che la Lega pretenda una serie di presenze sì. anche all'interno del mondo delle banche. Con due, però, a mio modo di vedere, due sottolineature a mio modo di vedere importanti. Primo, la Lega purtroppo ha un precedente piuttosto nefasto da questo punto di vista. Anni fa addirittura cercò di fondare una banca, Credi Euronord, esatto, che ebbe un risultato veramente negativo, veramente, e poi la si dovette salvare, giusto. Poi secondo, io mi auguro soprattutto che prevalga il tema della competenza. Prima si parlava di merito del credito, io ho lavorato in banca per più di 35 anni, la cosa fondamentale è il merito del credito, quindi bisogna stare molto attenti quando si dice che è giusto aiutare i piccoli imprenditori, essere vicini al territorio, alle esigenze della gente, tutte cose sacrosante, però la banca deve innanzitutto fare una valutazione che sia il più corretto e più trasparente possibile sul certo. merito di credito, altrimenti c'è il rischio di fare dei pateracci. No, di logica impropria, che come abbiamo ricordato molto ci sono costate, perché il merito di credito non è un merito politico preferenziale, questo non c'è dubbio, quando diventa il secondo è un enorme pasticcio. Eccoci tornati in studio, rapidamente ancora le ultime due telefonate di ascoltatori che avevamo, poi torniamo ai nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto Max da Milano, prego Max. Buongiorno, senta, io ho ascoltato con attenzione quello che diceva l'ultima persona che è intervenuta come vostro ospite, sostenendo che addirittura Zaia applicherebbe politiche parademocristiane, addirittura bisagliane, ma insomma mi sembra una cosa al limite della querela, voglio dire, l'assoluta ignoranza politica di chi parla, perché. Dica, ma però perché? Un momento, lui diceva apprezzando il fatto che prevale la mediazione non solo su chi lo dipinge come toni di rottura, non è che gli volesse dare dei democristiani. No, ma guarda, la mediazione col potere finanziario espresso dalle grandi banche, alcune delle quali la prova di sé l'hanno data al meglio in tribunale, a mio parere non c'è. La politica della Lega è molto chiara rispetto al potere finanziario, il grande potere finanziario, ovvero impedire che succedano ancora porcherie assolute come quella di Zunino, per fare un nome, impedire speculazioni finanziarie basate sulla carta e non sul lavoro. La Lega vuole, nella sostanza, che la piccola e media impresa, cioè quegli artigiani, quelle piccole imprese che vanno in banca e i direttoruccoli chiedono loro cambiali a garanzia, ipoteche di primo grado, eccetera, cioè garanzie solide e materiali, per l'amor di Dio, assolutamente lecite. Ecco, che questa logica venga applicata un po' con tutti, non ad alcuni sì, ad altri no. A chi lavora davvero si contano, mi scusi, le monetine in tasca, no? Per vedere se è possibile dargli 30.000 euro di fido piuttosto che 28. Chiaro? Poi arrivano personaggi, ribadisco, come Zunino, ma Zunino è uno dei tanti, sia ben chiaro, ai quali si danno 10, 15, 20 miliardi di euro, cioè una finanziaria per intenderci, senza garanzie, perché in effetti siamo davanti a una cosa che assomiglia, io mi stupisco ancora, non siamo finiti tutti in tribunale, signori, ma mi riferisco ai banchieri. No, si figuri, io la devo interrompere testimoniandole che io stesso molte volte, e non solo di fronte al caso Zunino e alla richiesta della Procura di Milano portare a discontinuità i conti del gruppo risanamento di Zunino, io molte volte anche di fronte al risanamento di Mittel, insomma di azionisti rilevanti di Intesa, molto vicini al Presidente, ho detto se fosse stata gente, imprenditori comuni, sarebbero finiti falliti e in carcere. Invece naturalmente in quel caso vengono salvati. Io è a questo che mi riferisco quando dico che i grandi presidenti e i grandi amministratori delegati, se non hanno azionisti capaci di salgli un po' sul collo, alla fine non è affatto detto che siano poi così strepitosi interpreti dei diritti e degli azionisti minoritari, cioè quelli del mercato, che pesano meno e quindi non organizzano liste per far sentire il proprio peso negli organi di gestione delle grandi banche. Allora, ancora rapidissimamente, Federico Da Lucca. Federico, ci sente? Pronto, lo sento. Ci dica. Guardi, intervengo perché emerge da questa discussione l'esigenza di una chiarificazione concettuale di carattere generale. Scusi. Si tratta di questo. quando qualcuno dice noi siamo in uno stato di diritto, per giustificare, fondare la pretesa della Lega di partecipare, anzi di prendere possesso delle banche, dice una grandissima corbelleria, perché in realtà si tratta di una deformazione ottica che riporta al concetto per il quale chi vince le elezioni si deve prendere in mano tutto il paese e gestirlo come gli pare. Mentre invece il concetto base della democrazia è la pluralità delle decisioni, stiamo del concorso delle volontà. Scusi Federico, noi stiamo parlando della parte che compete esclusivamente agli enti territoriali locali, in quei particolari azionisti, lo abbiamo spiegato anche con citazione della Corte Costituzionale alla mano, che sono solo italiani, che sono le fondazioni bancarie nell'ambito dell'azionariato delle grandi banche. Quindi non stiamo dicendo questo, nessuno sta fondando le pretese di conquista di Gerusalemme, quindi, però anche chi intervenga, se no continuate a bastonarmi dicendo che io noi stiamo facendo informazione corretta tecnicamente, e quindi mi perdoni, io quando mi sento bastonare ma Mucchetti prima, lei oggi, dicendo che io sto giustificando il potere assoluto, siccome sto facendo l'esatto opposto, sto informando che in Italia esiste un particolare azionista che abbiamo solo qua, fatto per privatizzare le banche, che è espressione in teoria degli enti territoriali locali, oltre che di università eccetera eccetera, è tutto quello che ha detto Massimo Mucchetti. Però i fatti sono due, che quando poi l'espressione degli enti locali tenta di esercitare alcune prerogative, il banchiere, il presidente, l'amministratore delegato dice: ah, vuoi mettere la mano nella mia banca? E allora deve stare silenzioso e muto, questo è il punto. E dall'altra parte i presidenti e amministratori delegati non danno spesso queste grandi prove poi di meritare solo deleghe in bianco. Questa è la mia opinione tecnica, quindi io non sto fondando alcuna pretesa di conquista di Gerusalemme. Detto tutto questo, non vorrei però che ci fosse un'Italia che pensa che se è di un colore l'amministrazione locale, allora è per l'amministrazione autonoma e indipendente del banchiere, se di un'altra invece è la politica prepotente. E mi sembra che oggi purtroppo spesso abbiamo riproposto questo criterio di lettura. Allora, ultimo minuto prima per Paolo Franco e poi per Marco Alfieri. Senatore Franco, mi pare di capire che vi aspetta, come vede, un mare pieno di diffidenze, quindi forse un po' di prudenza è necessaria o no? La prudenza è sempre necessaria, soprattutto quando si parla di istituzioni così importanti, società così importanti come le banche. È evidente da quello che abbiamo ascoltato oggi che c'è un terrore, che un clima e una funzione delle fondazioni e conseguentemente degli istituti di credito vada a cambiare. Dico semplicemente in questo minuto, non è che nel passato anche recente, vero, ci siamo già dimenticati di casi Parmalat, bond argentini, via via, oppure da ultimo i casi dei derivati. Bene, se vogliamo dire in maniera molto semplice qual è la funzione, che ovviamente all'interno delle potestà legislative, non prevaricando nulla, la Lega vuole esercitare nel sistema delle fondazioni, quindi nel sistema bancario, è quello che questi fenomeni non abbiano più ad avere luogo. E forse chi è terrorizzato di questo cambiamento è proprio chi, grazie all'autoreferenzialità, di fronte a comportamenti come quelli che hanno defraudato una quantità enorme di imprenditori e di imprese italiane, vorrebbe che non ci fossero dei cambiamenti radicali. La Lega è evidente che se interviene e interverrà come proprio dovere per il consenso che ha avuto nei confronti delle fondazioni, lo farà con le finalità che ho detto poco fa. Grazie al senatore Franco. E Massimo Mucchetti ci ha lasciato ha lasciato detto in regia che non era per polemica, nel qual caso io mi scuso, sono semplicemente appassionato nel difendere i punti di vista, ma poi abbiamo tutti il tempo per intervenire e gli è stato dato. Ma Marco Fieri, l'ultima domanda, è un po' difficile anche il mestiere giornalista perché le passioni sono tante e soprattutto gli interessi, come si vede in intesa, sono contrapposti, quindi per voi Del Sole sarà un bel raccontare, per così dire, però qual è il metodo da seguire per non sembrare disattenti verso i territori o troppo conniventi o verso la politica o verso l'amministratore delegato, perché sono due cose entrambe sbagliate? Ma diciamo che è un mestiere certamente difficile, cioè verificare, come se suonano come frase retorica, ma credo che sia sempre la miglior ricetta. E credo che noi ci troviamo di fronte a un dato che spesso i giornali sottovalutano, no? Cioè, lo dico proprio parlando della Lega, io mi occupo spesso di Lega, e c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito, e cioè che provare a raccontare questo fenomeno, che non è ovviamente nuovo, ormai è 20 anni che la Lega è sul tavolo della politica italiana, raccontandolo in maniera, come dire, più possibile neutrale, spesso si è accusati, facendolo, di intelligenza col nemico, no? Nel qual caso il nemico ovviamente è la Lega per certi potentati. E cioè l'errore che si è fatto e si fa spesso ancora nel giornalismo italiano di dare semplicemente un giudizio estetico sulla Lega, cioè la Lega è brutta. Sono completamente d'accordo con Marco Alfieri, mentre noi dobbiamo dare importanza a un fenomeno a cui da tanti anni oramai gli italiani danno crescente importanza. Credere su questo di essere confusi con portatori d'acqua è una critica alla quale, secondo me, si deve esporre, perché altrimenti significa semplicemente avere una specie di puzza sotto il naso. Io personalmente non ce l'ho, e detto questo, però, non sono più prono all'amministratore delegato di una banca di quanto non sia a chi vince le elezioni. Fanno mestieri diversi, questo bisogna ricordare, perché l'espressione dell'economia e del mercato più lontana è dall'impropria commissione della politica, meglio è. Però attenzione, perché i manager bancari senza azionisti sbagliano, e sbagliano nei propri interessi. A domani, grazie in regia Filippo Reggi, redazione Alessandro Marco Tulli, linea Generale.